oggi approfondivamo una moda tutta americana, ovvero la possibilità di suonare metal ed essere ferventi cristiani, il cosiddetto Christian metal. Gli iniziatori, per molti, sono gli Striper, che nei loro concerti facevano una cosa un po' strana. L'ipotesi A ipotizzava che questi Striper distribuissero testi biblici al loro pubblico. Naturalmente dispiace giocarsi la risposta esatta alla prima occasione. Eccola là! Risposta esatta! Ma è la risposta giusta, soluzione Bibbie giusta. Come se piovesse! Gli Striper regalavano Bibbia ai loro concerti. Molti detrattori della band li accusarono di distribuire i testi biblici come strategia per fare denaro, ma tant'è, gli Striper veramente consegnavano Bibbie. Ma non capisco, scusi, spendevano denaro per comprare le Bibbie e poi regalarle? Non doveva entrare in questo vicolo cieco nel quale neanch'io sapevo cul-de-sac. La domanda, passiamo all'ipotesi la domanda che anche, alla quale anche Mox Cristadoro non ha risposto è: ma queste Bibbie le vendevano o le lanciavano? Lui dice che le lanciavano. Quindi questi detrattori sbagliavano. Ma infatti. Passiamo tranquillizzando i radioascoltatori. L'ipotesi B: gli Striper non si fecero mai crocifiggere al termine dei loro concerti. E ipotesi C: non ci furono mai grossa affluenza di sacerdoti ai loro concerti. La risposta giusta era la A. Bravi! Tantissimi punti per la vostra patente da autentico rocker. Adè, non esageriamo, due. Due punti. Non gliene diamo tre? No, era semplice, dai. Vabbè, allora due. Restiamo sui due. Due punticini. Però due punticini sono sempre due bei punticini. Cantano lodi a Jesus, con acuti però, gli Stripers, Makes Me Wanna Sing. Allora ragazzi, che giornata, iniziamo l'ultimo blocco, addirittura ad arrivo le 9. Io a inizio trasmissione ve l'avevo promessa una puntata di quelle da ricordare e vi dico solo che non è ancora finita, anzi ho lo scoop della giornata. voi cari amici là fuori. Allora, vediamo di presentarla così. È stata data notizia, anche da noi di Rock FM, della reunion dei Led Zeppelin, ok? Si terrà il 26 di novembre a Londra. Il concerto sarà unico, questa era la notizia. Quindi era stato aperto un sito apposta per iscriversi, iscriversi al concerto, per prenotare i biglietti. Dopodiché era stata promessa una estrazione per pochi fortunati, pochissimi fortunati. La notizia che ha seguito questa dell'estrazione dei biglietti era stata che 20 milioni di persone si erano iscritte a questo sito. Ok? 20 milioni. Questo vuol dire che se voi vi eravate iscritti era matematicamente quasi impossibile che il vostro nome fosse estratto. Io mando in diretta un radioascoltatore, si chiama Morgan, ha 29 anni, lavora nel campo informatico. Morgan, vuoi dirlo tu o lo dico io? Buongiorno Rock. Allora, niente, dillo pure te perché neanche io ci credo. Morgan dice, io non posso, adesso lavorerò per far sì che questa cosa venga scoperta oltre ogni ragionevole dubbio. Morgan dice che è stato estratto. Eh sì, è proprio così, cioè io non ci credo nemmeno, il mio amico nemmeno, però siamo stati estratti, cioè sono stato estratto, due biglietti sono acquistabili sul sito inglese, sì, della Ticketmaster, sì, e niente, mi è arrivata una password, le congratulation, la mail con le congratulation, mi hanno detto complimenti, spendi 125 pounds a testa, sì, e vola a Londra per un evento unico. Cioè, allora Morgan, facciamo così, io ti chiedo subito scusa perché mi capirai, sono un filo scettico sulla cosa, nel senso che tu hai scritto, io ovviamente ci ho creduto subito perché ai miei radioascoltatori io credo. In fuori onda ho parlato con Morgan, a me sembra che stia dicendo non voglio farti passare per pazzo scatenato, anche perché qua il pazzo scatenato sono io. Io un po' ci credo, però permettimi, cioè, che qualche dubbio ce l'ho. Tu sostieni di essere stato estratto tra 20 milioni di persone, ti rendi conto? Sì, lo so, infatti erano 14.000 e dispari biglietti, qualcosa di simile. Mazzè. Quindi, cioè, guarda, non ci credo neanch'io, però io li ho presi, ho pagato e ho preso tutto. Cioè, l'O2 Arena la stiamo aspettando con ansia. Il radioascoltatore che state sentendo andrà a vedere le Zeppelin. A meno che, stavo pensando questa cosa, tu, caro Morgan, visto che da qui al 29 ce n'è di tempo, 29 di novembre, no, 26 di novembre, 26 novembre, novembre, sì, ce ne sarà di tempo, tu hai la più pallida idea di che offerte potresti ricevere? Non ho idea, però non mollo, non cedo. Cioè la notizia dell'estrazione quando l'hai avuta? La notizia dell'estrazione è l'altro ieri. Ieri, sì. Quindi non ci hai ancora ragionato. Ti metto io una piccola pulce nell'orecchio, posso? Dimmi. Metti che c'è un fan dei Led Zeppelin australiano che ci vuole andare e scopre che Morgan Milano, del 29 anni, ha un biglietto. Secondo me questo potrebbe offrirti, te la butto lì, sì, 10.000 euro. Lo so, però il problema è che il biglietto è nominativo. Non si può rivendere? No, il problema è questo. Maledetti, no, io puntavo subito al bagarinaggio che si divideva, mannaggia. Oh. Sì, ti hanno fregato perché c'è. Ah, ci avevi pensato però, Cioè, non lo so, se mi offri 10.000 euro ci posso ripensare un po', però non ho idea di come agire dopo. Senti. Però la cosa è impressionante perché c'è il biglietto e ti danno anche un braccialetto a te e all'amico che porti, quindi la cosa è devi presentarti all'entrata con il braccialetto e il biglietto, se manca uno dei due non ci entri, cioè hai perso 200 euro. Morgan, allora, dimmi. Io sono contento quanto te di questa idea, di questa cosa che ti è accaduta, perché tra l'altro se un radioascoltatore di Pane, Burro e Rock and Roll vede le Zeppelin è come se li avessi visti io, quindi mi va bene. Ah, ottimo, ci teniamo in contatto da qui al 26 di novembre. Ti chiederei, senza offesa, se magari via mail mi giri, cioè insomma dammi, hai capito? Cioè, sì, dammi delle testimonianze concrete che questa cosa è avvenuta. Sì. Sì, sì, posso vedere cosa darti, perché ho dei codici e quelli là non è che no, cioè, okay. Sono personali. No, poi non voglio craccarti. Esatto, perché in realtà vogliamo craccarti l'invito. Senti, facci sapere, insomma, dacci, sai, siamo un po' come San Tommaso, qui bisogna toccare, vediamo di scoprirlo entro il 26 di novembre. In ogni caso, I want to believe, ci voglio credere, il nostro radioascoltatore Morgan andrà a vedere le Zeppelin. Tu, bella, ragazzo, c'hai un culo grosso così. Lo so, non ci credo neanch'io ancora, comunque vedremo. Buona giornata. Grazie anche a voi. Rock and roll, Led Zeppelin. Oh yeah. Ragazzi, uno di noi andrà a vederli. Sembra ufficiale. Non tutti l'hanno presa bene questa cosa, Morgan. C'è qualcuno che ha dei commenti nei tuoi confronti che non posso leggere? Ma noi siamo in squadra con te, tranquillo. Ti difenderemo a spada tratta. Sono le 8 e 46 minuti primi, oggi più che mai devo chiedere scusa a tutti quelli che hanno scritto, che non stanno sentendo il loro messaggio in onda. Ragazzi, oggi è stato un delirio, non ci potete credere a quanti messaggi c'ho lì sopra, e gnafo, non lamentatevi che non li leggo, sono tutti qui, sappiate che noi, cioè, arrivano, non arrabbiatevi se non leggiamo il vostro, e soprattutto a tutti coloro che avevano richiesto strombazzate per quest'oggi, concedetemi una strombazzata cumulativa, ok? Voi sapete che avete scritto, era diretta a voi, anche perché io devo correre, il tempo stringe e tra pochissimi minuti andremo, come promesso, a regalare anche quest'oggi al pubblico, all'ascolto di Pane, Burro e Rock and Roll, la traduzione cantata, ok? Il brano dei Beatles cantato in italiano. È uno scempio, anche quest'oggi, è uno scempio, ve lo dico subito. Quindi se siete sensibili, girate stazione radiofonica, ci sentiamo dopo per i saluti. Ci ascoltiamo una meravigliosa Nobody Told Me, targata John Lennon, così chiediamo scusa anche a lui, e a seguire il brano dei Beatles in italiano di quest'oggi. Ragazzi, prendeteci per quello che siamo, eh? Non prendetela troppo seria. John, rilassami un attimo perché oggi proprio gnafo, eh? Non ci arrivo stasera io. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. China, so finish what you got. Sulle frequenze di Rock FM, Pane, Burro e Rock and Roll, che la squadra vi regala ormai settimanamente questo spazio che chiamiamo la traduzione cantata, ovvero cosa sarebbe successo se i Beatles fossero nati a Cornaredo? A Cornaredo, provincia di? Milano. Milano, credo. Benissimo. Cosa sarebbe successo se i Beatles fossero nati a Borgo Panigale, provincia di Bologna? Non chiudiamo gli occhi, se i Beatles fossero nati a, a Castelsardo. Ma se fossero nati a Sestri Levante? Ovviamente non avrebbero potuto scrivere Let It Be, perché non avrebbero saputo la lingua inglese e avrebbero scritto... Ma filologicamente correttissimi, avrebbero deposto sul foglio, nero su bianco, lascia che sia. Ci sono molti detrattori di questa rubrica, molti puristi dei Beatles che hanno giustamente fatto sapere che cambieranno stazione radiofonica ogni qualvolta noi riproporremo questa rubrica, e questo sbagliano. È il momento. Ma sbagliate, bravo. Sbagliano, mi lasci interrompere DJ Ariele per dire che sbagliano perché questa è la traduzione filologicamente, etimologicamente ineccepibile, perfetta, scrupolosa. Dunque è cultura e pertanto deve essere accettata. Abbiamo già svelato il brano che martoreremo quest'oggi. Il buon Isaac, il nostro stegista, è pronto con la sua sei corde. Io pure, maestro, se la sente? Ma naturalmente no, ovviamente. In diretta sulle frequenze di Rock FM, Roberto Fricantoni interpreta Let It Be dei Beatles in una nuova versione intitolata Lascia che sia, sì. Lascia che sia, lascia che sia. Me lo sussurri. Lascia che sia. Prego ragazzi, possiamo attaccare. Ma ce ce fo. Quando mi trovo in momenti difficili, Madre Maria viene proprio da me, dicendo parole di saggezza, lascia che sia. E nelle mie ore buie, lei sta proprio lì davanti a me, dicendo parole di saggezza sua, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. Bisbiglia parole di saggezza, lascia che sia. E quando i popoli dal cuore spezzato che vivono nel mondo si accorderanno, ci sarà una risposta, lascia che sia. Perché sebbene possano essere così divisi, c'è la possibilità che poi vedano, e allora ci sarà una risposta, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, ci sarà una risposta, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, ci sarà una risposta, lascia che sia, lascia che sia. E quando la notte è nuvolosa, c'è ancora una luce che splende su di me, splende fino a domani, lascia che sia. Così mi sveglio al suono della musica e Madre Maria torna da me, dicendo ancora parole di saggezza, lascia che sia, lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. Bisbiglia parole di saggezza, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. Bisbiglia parole di saggezza, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. Bisbiglia parole di saggezza, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. Bisbiglia parole di saggezza, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. lei sussurra parole di saggezza, lascia che sia, lascia che sia. Allora, Molina, io ne approfitto per salutare anche quest'oggi il mio mitico cugino Paolo Molina, che è niente dedicata a lui, oh, anche Laura Molina, che è la mia cugina, è la fine veramente in tutti i sensi, tra un minuto vi lascio a Garavelli, che giornata ragazzi, vi ricordo che potrete riascoltare la puntata su RadioRockFM.com, oggi più che mai. Se non mi succede nulla, questa sera sono allo Charlotte di Colle Salvetti in provincia di Livorno. In tanti mi avete scritto, ci vediamo lì. E lo stesso dicasi per l'appuntamento di domani sera invece all'Alcatraz di Milano per i 17 anni di Rock FM all'Alcatraz con tutti noi della radio, la band, Treves, Antoni, una cacciara. Pane, burro e rock and roll. La puntata numero 25 termina. La tua colazione roll. Andremo forse con la 26 lunedì. Pane, burro e rock and roll. Uso sempre il condizionale perché qui sulla strada del rock and roll non si sa mai, non si sa mai. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare, pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene e fa bene. La colazione che dà assuefazione termina qui. Diamo il buongiorno a Marco Garavelli. Cosa stai facendo? Mi stai mettendo a posto il microfono? Sì. Nella speranza che vada a posto, tra l'altro. Sì, non è semplice. Buona giornata Marco, che puntata oggi, non ci puoi credere. Grande partecipazione, ma hai sentito che abbiamo beccato, forse, qui non lo so, però Morgan è stato estratto per il concerto dei Led Zeppelin. Ma come è funzionato? Io non stavo seguendo. Ho guardato il sito ufficiale, diceva che l'1 ottobre si chiudevano le iscrizioni e il commento era entro 24 ore riceverete una mail, chi è stato estratto. Da quello che in dice, che modo non si sa. no, Garavelli, sempre a mettere adesso non metterti anche è tu. È come l'otto? Non lo so, adesso ci informeremo però. Intanto sembra che un nostro radioascoltatore andrà. Da qui al 26 di novembre ci documenteremo, di tempo ce n'è, infatti. E poi ci organizziamo, tipo che gli diamo un cellulare aziendale e ci facciamo telefonare da Londra. E va bene. Dici che non ce lo dà, ma secondo me sì. Gli rubiamo un cellulare a qualcuno dell'azienda e glielo portiamo. Va bene. Tu non ce l'hai. Dici tu. Ma Garavelli non hai il cellulare aziendale? Non ce l'hai? Neanch'io, strano. Va bene. Potremmo richiederlo, ne approfittiamo, no? Guardate, c'è un nostro radioascoltatore che va a Londra, visto che non vogliamo pagare dal fisso. Ah, volevi mandare in onda il concerto? Sì, in quel modo, addirittura. Un bootleg, insomma. Andiamo bene, andiamo sempre meglio. È andata, ragazzi, ci si risente lunedì, vi lascio con Garavelli. Va bene, aspetta, ciao. Aspetta, c'è Spadino che ha sbagliato il jingle, lasciagli il tempo di beccarlo. Di qualcosa lunedì, da buon professionista. Devi dire, a lunedì. Esatto, aspetta. Dai, cambialo, posizionalo, cancella l'altro, ci siamo. Complimenti, finalmente. Spadino, ciao. A lunedì prossimo, ciao.